in primo piano. Buongiorno, buongiorno e buona Pasqua a tutti da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali. Oggi i giornali sono regolarmente tutti in edicola, quelli italiani invece non ci saranno domani, perché oggi i giornalisti della carta stampata, per quella stranezza che sempre cito quando succede, non lavorano. Però invece naturalmente su Radio 24 i miei colleghi di Radio 24 lavorano tutti, e lo stesso vale per i colleghi del sito, quindi per informarsi appunto faremo così. Il Sole 24 Ore, la prima pagina del Sole 24 Ore, apre con un'intervista di Marco Mussanè, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, che ha intervistato il candidato Macron alle elezioni francesi. Ormai mancano circa 10 giorni, e ex ministro dell'economia Emmanuel Macron ha delle possibilità, soprattutto al secondo turno. Il titolo scelto per l'intervista: lo scudo UE sull'industria europea. Secondo Macron, l'asse franco-tedesco, che una volta era molto forte, oggi è più debole, e l'Italia potrebbe rafforzare questo asse. Importante questa dichiarazione sull'industria, perché sapete che c'è un piano che si chiama 2020 per innalzare il peso della manifattura sull'industria, e tra l'altro tra i paesi che avevano più contribuito a spostare invece il focus sui servizi, sul terziario, c'era il Regno Unito, che come sappiamo causa referendum sulla Brexit non farà più parte dell'Unione Europea. Quindi mi sembra importante questa dichiarazione, in linea anche con la posizione dell'Italia, che è un paese manifatturiero, il secondo paese manifatturiero europeo dopo la Germania. Mi sembra importante questa dichiarazione appunto di intenti. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore le due iniziative che partono oggi, e sono tutte e due legate appunto all'edizione della domenica del nostro quotidiano. Sono due appuntamenti che troverete poi nelle pagine dei commenti, sono richiamati in prima pagina. Uno è, a proposito di Europa, Viaggio nell'anima dell'Europa. Sono dei racconti a cura di Carlo Ossola, che è uno dei più importanti accademici che abbiamo in Italia, che cercherà di farci capire, di dare un senso a questa dichiarazione che facciamo sempre, che in Europa abbiamo tutti origini comuni, che l'Europa è, che l'Unione Europea è importante perché si fonda su una storia che dei paesi che si intreccia tantissime volte, che è stata stratificata. Il viaggio di Carlo Ossola avrà 16 tappe, e la prima puntata si intitola Dalla casa di Erasmo col bus 49 verso il cuore della nostra identità. L'altro appuntamento che trovate da oggi sono degli incontri, un po' come chi magari ha familiarità con Financial Times nell'edizione del weekend. Financial Times non esce la domenica, ma l'edizione del weekend è molto ricca. C'è questa serie a tavola con, è molto divertente perché viene addirittura il giornalista, incontra un personaggio in un ristorante, in un caffè, e viene anche scritto che cosa si è mangiato e quanto si è speso. Questo non succede per il Sole 24 Ore, ma perché non è una copia di quello che fa Financial Times, anche se forse un po' si ispira a quello. Questi sono dei veri e propri incontri, anche qui con personaggi che di tutti i generi. Il primo è una serie che sarà seguita da Paolo Bricco, inviato del Sole 24 Ore. Il primo incontro è con Maria Cristina Messa, che è il rettore dell'Università Milano Bicocca, e che racconta sia il suo percorso di medico, sia quello che vuole fare per l'università, e anche la sua visione, visto che ha a che fare tutti i giorni con i millennials, con i ragazzi che studiano e si preparano a affrontare il mondo dopo la laurea, la sua visione di questa nuova gioventù, la nuova trincea dei ragazzi della classe 99. Vi dicevo appunto, poi trovate oggi questi due articoli, uno a pagina 19, a pagina 2 c'è l'intervista che vi dicevo a Macron. Trovate anche, scusatemi, a pagina 3, a pagina 2 invece un interessante articolo di Alberto Negri, perché oggi, credo che ne parleremo anche domani, cercando sui siti, perché come vi dicevo domani i giornali italiani non ci sono, ma ci sentiremo comunque per parlare dei giornali stranieri, dei siti e magari anche un po' dei settimanali. Comunque oggi si vota in Turchia. È un voto importantissimo, tanto che l'articolo di Alberto Negri si intitola Erdogan sfida la storia, da presidente dei turchi a imperatore d'Oriente. Il referendum di oggi potrebbe accordare a Erdogan poteri assoluti, pensate, fino al 2034. E vi dicevo, a pagina 19 trovate questo, appunto, questa prima puntata del viaggio di Carlo Ossola in Europa, e invece a pagina 18 l'incontro, appunto, di Paolo Bricco con il rettore della Bicocca, che parla di studenti, cosmopolitismo, di quello che viene chiamato di maniera e invece la vera preparazione. La prima pagina del Corriere della Sera invece apre sullo scontro, perché di questo si tratta, tra Corea del Nord e Stati Uniti. Per ora, per fortuna, è uno scontro solo a parole, per quanto durissime, e il titolo è Kim, naturalmente ci si riferisce al dittatore della Corea del Nord, mostra i missili agli Stati Uniti. Ieri è stato un giorno di festa, di celebrazioni in Corea del Nord, ma tra queste celebrazioni c'è stata anche la parata, una parata militare, e protagonisti di questa parata anche i nuovi missili intercontinentali messi che la Corea del Nord ha a disposizione e che ieri ha fatto vedere al mondo. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Corriere della Sera la pubblicazione di un intervento del Papa Emerito, cioè di Benedetto XVI, Papa Ratzinger, che in occasione della Pasqua interviene appunto con questo scritto, che poi viene anche commentato da Andrea Riccardi a pagina 30, l'allarme di Ratzinger: non dimentich noi dimentichiamo Dio, la Chiesa è in pericolo. E poi vi segnalo, visto che oggi molte persone lavoreranno anche noi qui a Radio 24 stiamo lavorando, vedremo dopo, sono 4,7 milioni gli italiani che regolarmente lavorano di domenica e anche la domenica di Pasqua. Sapete che c'è, l'avete sentito nei GR ieri, e oggi daremo sicuramente degli aggiornamenti. C'è questa polemica nell'outlet di Serravalle, gestito dalla McArthur Glen, che è il colosso europeo degli outlet, perché l'apertura pasquale ha destato molti malumori. Si tratta in realtà di uno spunto questo, perché i lavoratori di Serravalle rivendicano una serie di cose legate al lavoro domenicale o nei festivi. In ogni caso, vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera un articolo di Dario Di Vico, che poi trovate a pagina 33. È giusto lavorare la domenica? La Repubblica ha un'apertura simile a quella del Corriere: nel regno di Kim sfilano i missili. L'intervista, anche per commentare queste novità sui rapporti tra Corea del Nord, Stati Uniti, ma anche Cina, Corea del Sud, Giappone, tutta l'area asiatica, dove c'è questo paese imprevedibile, che è la Corea del Nord. Un'intervista a Romano Prodi, che poi trovate a pagina 4. Alla fine l'America cederà al potere cinese. Ma sulla prima pagina di Repubblica viene anche ricordato il gravissimo attentato di ieri ad Aleppo. Sono state delle esplosioni contro due bus che portavano, tra l'altro, persone in fuga dalla città, che è ancora una delle città dove si combatte, e sono morte circa 100 persone. Poi, richiamato in prima pagina anche il supplemento domenicale della Repubblica Robinson, perché la copertina è dedicata al nostro pianeta, alla Terra, con un lungo scritto di Amitav Ghosh, quel pianeta malato che non vogliamo vedere. La Stampa, veramente ve la raccomando questa inchiesta, apre su, appunto, l'inchiesta delle pagine 2 e 3. Come sapete, la domenica la Stampa ha sempre questa inchiesta sui temi più svariati, che viene appunto subito all'inizio del giornale, ed è sul mercato delle armi. Non so se ha fatto effetto anche a voi, ma il famoso missile, che Trump ha scagliato sulla Siria, il cosiddetto MOAB, che non sta per Mother of All Bombs, c'ero cascata anch'io, ma Massive Ordnance Airstrike, insomma, è un acronimo che dà l'idea di quanto potente è questo missile, non che sia la madre di tutte le bombe, termine che io trovo terrificante. come madre di tutte le guerre, come insomma tutte le volte in cui viene usata questa metafora, mettendo in mezzo la figura, una figura materna. In ogni caso, quel missile costa 15 milioni di dollari e un solo Tomahawk ne costa 1,5. E come abbiamo detto, forse chi ci ha seguiti venerdì, abbiamo parlato di questa possibilità che in effetti una nuova guerra purtroppo abbia questo effetto non collaterale ma diretto di rimettere in moto l'industria della guerra. E da qui l'inchiesta della Stampa, il boom del mercato delle armi. La Nord Corea mostra i missili ma non fa il test, contatti Trump-Cina per evitare la guerra, questo è il legato alla cronaca di ieri. Ma il dato che emerge da questa inchiesta è che il mercato medio orientale delle armi cresce dell'86% e anche noi intesi come italiani, perché purtroppo produciamo e esportiamo molte armi anche noi, facciamo affari d'oro. E approfitto solo per dire una cosa su questo aspetto, cioè che in Italia c'è per esempio appunto un'industria delle armi, così come c'è l'industria della carne. Tanti ascoltatori, dopo averci sentito parlare di veganismo, di vegetarianismo, hanno scritto dei messaggi dicendo ma poi le persone che però lavorano in questi settori come faranno? Naturalmente il problema è molto, molto complesso e forse l'idea è proprio quella di cambiare alcuni paradigmi e di sostituire alcune industrie con altre. Ma è un tema molto complesso, però solo per dire che non voglio essere superficiale su questo. Certo che ci sono persone che non vanno assolutamente colpevolizzate, che lavorano in queste industrie sulle quali a volte ci facciamo delle domande. Ci fermiamo però ora un attimo per una pausa e sentiremo anche gli aggiornamenti su questo strano meteo pasquale. In primo piano. Buongiorno ancora e buona Pasqua da Giulia Crivelli. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi anche e agli auguri che stanno mandando e anche a chi magari non è così d'accordo con quello che diciamo. Messaggi naturalmente SMS o WhatsApp al 349-238-6666 e grazie a chi mi ha segnalato la svista, naturalmente i Tomahawk sulla Siria l'11 di aprile, invece il MOAB, che sta per Massive Ordnance Air Blast e non per Mother of All Bombs, sull'Afghanistan. Il Messaggero ha un'apertura diversa, perché il Messaggero ha un'intervista al ministro dell'economia Padoan e il virgolettato scelto per intitolare l'intervista è più IVA e meno tasse sul lavoro. Ancora una volta si cerca di capire quali saranno i provvedimenti soprattutto fiscali della manovrina, ma anche poi della prossima manovra economica, che in realtà alla quale mancano ancora mesi, però il grande tema in Italia è sempre quello della riforma fiscale. Padoan, più che sul taglio dell'IRPEF, di cui anche qui si parla sempre, parrebbe su un'ulteriore riduzione del cuneo fiscale e semmai un aumento sull'IVA per compensare la riduzione del cuneo fiscale. Un interessante articolo, ci vorrebbe Alessandro, magari glielo tengo via, perché sapete che in teoria le province italiane sono sempre sull'orlo dell'abolizione, che però non arriva, e intanto un'inchiesta del Messaggero, che prende spunto dai dati dell'Unione delle Province Italiane: province nel caos, siamo senza fondi per strade e scuole, abbiamo meno risorse ma le stesse competenze, sprechi e doppioni dopo la riforma del Rio. Avvenire naturalmente si occupa della veglia in San Pietro e di Papa Francesco, che oggi naturalmente celebrerà la messa. Il titolo: fermento di umanità. Francesco, il risorto Cristo naturalmente fa saltare tutte le barriere in un mondo che nella Pasqua cerca il riscatto. E poi una fotonotizia dedicata a Josef Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI, che come abbiamo visto oggi compie 90 anni. Il Giornale ha un'inchiesta, anche in questo caso particolare, fatta appunto solo dal Giornale, ed è sul costo della gestione dell'immigrazione. Ci costano 4 miliardi euro per euro tutte le spese per i migranti. Una fotonotizia anche in questo caso dedicata a Josef Ratzinger, qui ritratto insieme all'ex portavoce della Santa Sede Padre Lombardi, e con un'intervista a Padre Lombardi Ratzinger non si è pentito, naturalmente la sua scelta di appunto dare le dimissioni e diventare Papa Emerito ha una memoria perfetta e il Papa, Papa Francesco, lo chiama spesso. Il Fatto Quotidiano invece torna sull'inchiesta Consip, che era stato il primo, è il giornale a cui ha dato più spazio questa inchiesta Consip. Sapete, la Consip è la centrale che decide gli acquisti della pubblica amministrazione, è l'inchiesta che coinvolge il padre di Matteo Renzi. Ora il Fatto Quotidiano si concentra sulle dichiarazioni di ieri del ministro della giustizia Orlando, che ha attaccato il nucleo operativo dei carabinieri, perché sapete che uno di questi carabinieri è accusato di aver falsificato le intercettazioni o di aver comunque scambiato i testi di alcune intercettazioni, e quindi il Fatto Quotidiano, come sempre molto critico verso l'atteggiamento del governo su questa inchiesta, Consip, Orlando attacca il NOE e assolve Renzi. La fotonotizia però è dedicata a un'esclusiva che ha il Fatto Quotidiano, che ha visto in anteprima la puntata che andrà in onda stasera della trasmissione Report, perché tra i tanti argomenti che sui quali si concentrerà Report questa settimana è quello che viene definito il mega flop in Umbria di Benigni, che aveva deciso di creare una sorta di piccola cinecittà in Umbria, dove peraltro lui aveva girato alcuni dei suoi film. Non è decollata. Report ha fatto un'inchiesta su questi fondi e Benigni pare, secondo quanto scrive il Fatto, abbia mandato immediatamente una diffida per non mandare in onda la puntata, che in realtà credo che andrà in onda regolarmente stasera. Libero ha un'apertura ancora diversa, per il 20 di maggio si sta organizzando un corteo a Milano che Libero definisce il corteo di ricchi e VIP per avere più profughi. Le menti della sinistra sfilano in favore dei clandestini, li accolgano pure ma solo in casa loro, e trovate poi l'approfondimento a pagina 2. Il Manifesto invece dedica la copertina al referendum in Turchia. La foto è di Erdogan e il titolo secco è Top Capo. Urne aperte oggi in Turchia per il referendum sulla riforma costituzionale. È l'ultimo ostacolo che divide Erdogan dalle sue aspirazioni di presidente a vita. Se vincerà il sì, il sultano resterà da solo al comando, secondo il Manifesto, fino al 2029. Le opposizioni, abbiamo visto che invece Alberto Negri ci spiega che è più probabile addirittura 2034. E le opposizioni verrebbero spazzate via. La Verità prende spunto dai sondaggi di ieri che forse avete sentito, dicono che se tutte le forze del centrodestra si unissero vincerebbero le elezioni, e quindi il titolo dell'articolo del direttore Maurizio Belpietro: il ritorno del Cavaliere e del centrodestra. Dato per spacciato, ancora una volta Berlusconi è tornato invece al centro della scena. Fa il minimo indispensabile, eppure Forza Italia riprende a crescere nei sondaggi e con Lega e Fratelli d'Italia può vincere. L'Unità ha una foto effettivamente abbastanza impressionante di questi due missili che hanno sfilato ieri in Corea del Nord. Il titolo è La guerra dei maschi alfa, quindi abbiamo la madre di tutte le bombe e i maschi alfa. Veramente trovo entrambi i modi di dire così disturbanti, e che a volte insomma non credo che sia così utile usare queste metafore per parlare di cose così importanti. In ogni caso, il sommario dell'Unità: la Corea di Kim mostra l'arsenale, sfilano soldati, bombe e missili, siamo pronti alla guerra nucleare. Questa l'inquietante dichiarazione di ieri di Kim Jong-il. La strategia delle superpotenze, USA, Russia e Cina, tengono in perenne allerta, pensate, 15.350 testate. E vi segnalo la prima parte della Domenica di Walter Veltroni, perché si intitola Sinistra e Popolo, ma qui soprattutto c'è una, a proposito di sviste, Finché la faccio io, pazienza, ma pare che persino il presidente degli Stati Uniti abbia detto questo. Il presidente degli Stati Uniti, intervistato da Fox Business, spiega la sua decisione di lanciare 59 missili sull'Iraq. L'intervistatrice lo corregge, forse voleva dire sulla Siria, li ha lanciati sulla Siria, e lui pare che ha risposto, ah già, sulla Siria. E poi vi sempre sull'Unità, un'intervista al ministro della giustizia Orlando, di cui abbiamo visto anche, si occupa anche il Fatto Quotidiano. In questa intervista Orlando, pagine 4 e 5, spiega come cambierò il PD, perché sapete che Orlando, benché sia ministro dell'attuale governo, ma lo sia stato anche del governo precedente, cioè quello di Matteo Renzi, sfida Matteo Renzi alle primarie per guidare il Partito Democratico. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali, come sempre di domenica sul Sole 24 Ore, la pagina dedicata a sport e business. Questa settimana in particolare si concentra sulla pallanuoto. Effetto 7 bello sulla pallanuoto, il riferimento è alla squadra nazionale di pallanuoto italiana, che ha 7 componenti come tutte le squadre di pallanuoto e che negli anni scorsi ha vinto molto, quindi questo effetto 7 bello, 20.000 tesserati e 1,5 milioni di fan. La nazionale traina un movimento che a livello di club stenta però a crescere. Dalla pagina interna del Corriere della Sera, ma trovate la notizia un po' ovunque, c'è questo, quello che viene definito il caso Rai. Fico si schiera con Campo Dall'Orto. Chi è Fico? Roberto Fico è il presidente della commissione di vigilanza sulla Rai, che ieri ha fatto questa dichiarazione. Se è un esponente del Movimento 5 Stelle, se Renzi vuole cacciarlo, allora noi dobbiamo difenderlo. Io spero adesso che gli ascoltatori, se ci sono, del Movimento 5 Stelle non mandino subito messaggi di super critica con toni che purtroppo spesso sono molto aspri. Però vi sembra un argomento questo? Se Renzi vuole cacciarlo, allora noi dobbiamo difenderlo. Sembra un po', me lo sono tenuto via apposta, quello che diceva ieri sul Corriere della Sera Massimo Gramellini nel suo caffè in prima pagina, mangiatori di bufale. Si riferiva in questo caso alle bufale dette, scritte e poi potenziate dal passaggio in rete sulla sorella di Laura Boldrini, presidente della Camera, e scriveva Massimo Gramellini: una persona diffidente tende a credere alle calunnie che riguardano coloro verso i quali prova rabbia e paura, immigrati e politici in primis. Nelle bufale cerca la conferma di un pregiudizio che ha già. Il suo implacabile ragionamento suona più o meno così: la terra sarà pure rotonda, ma se lo sostiene la Boldrini, allora è sicuramente quadrata. Ecco, Fico sembra dire se Renzi sostiene qualcosa è sicuramente sbagliato. È un pessimo approccio per avere un dialogo che comunque ci deve essere tra le forze politiche e tra tutte le persone che queste forze politiche rappresentano. Detto questo, invece, sempre sul Corriere, un'intervista a Dario Franceschini, ministro della Cultura, che torna sulla questione sollevata nelle settimane scorse di quanti visitatori possono sopportare i centri storici senza correre il pericolo che le opere o il centro storico stesso venga danneggiato. E in questa intervista Dario Franceschini conferma contatori per i turisti nelle piazze, ma sgravi fiscali per i negozi storici. Vi dicevo, i dati su chi lavora la domenica li trovate a pagina 33 del Corriere della Sera, anche su altri giornali, ma qui appunto sono dati con grandi particolari e anche uno schema molto efficace. Il titolo è Chi lavora la domenica, 4,7 milioni gli italiani occupati nei giorni di festa, 3,4 sono dipendenti, in prevalenza nei settori turistici e alberghieri. C'è anche una classifica. L'Italia, questa percentuale corrisponde al 19,5% dei lavoratori, siamo al quintultimo posto, dopo di noi ci sono Austria, Francia, Belgio e Lituania, ma in cima alla classifica ci sono Danimarca, Slovacchia, Paesi Bassi, Croazia e Slovenia, con percentuali di persone che lavorano la domenica superiori al 30%. Ci fermiamo però un attimo, non avevo perso di vista lo scorrere del tempo, ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona Pasqua e grazie davvero a tutti gli ascoltatori che stanno scrivendo e che stanno mandando gli auguri, grazie anche a quelli che mandano dei messaggi non particolarmente positivi, pazienza, comunque ci state ascoltando, siete svegli, mandate un messaggio e fa sempre bene avere questo tipo di confronto. Vi segnalo, prima di passare ai supplementi domenicali, una pagina intera, pagina 19 di Repubblica, su questo tema. Anche qui se ne sta parlando sempre più spesso, quindi forse succederà qualche cosa anche in Italia, ed è la questione di staccare lo smartphone o il PC o il tablet dopo che si è usciti dal lavoro, soprattutto quando sono appunto degli strumenti di lavoro. Stop a mail, SMS dopo l'ufficio, presto sarà possibile ignorarli. All'Università dell'Insubria, primo test italiano di diritto alla disconnessione per i dipendenti. Niente messaggio o posta elettronica dalle 20 alle 7 e il Senato adotta lo stesso principio nella normativa sul lavoro agile, il cosiddetto smart working. Una segnalazione ancora dalla Stampa su un'altra questione di cui stiamo parlando negli ultimi giorni, da quando la Svizzera ha lanciato questo monito. Di chiudere, anzi più che un monito, ha proprio preso una decisione di chiudere le frontiere, la Svizzera italiana, le frontiere con l'Italia, soprattutto per evitare l'ingresso in Svizzera di migranti. E l'inviato della Stampa, da Alberto Mattioli, in un reportage ci racconta sul confine dei dispetti dove litigano Italia e Svizzera. Valichi chiusi a singhiozzo e Roma infatti ha convocato l'ambasciatore della Svizzera: venite a togliere il lavoro a chi vive nei cantoni. Questa è un po' la difesa dell'ambasciatore svizzero. Ultimissima segnalazione dal Messaggero, l'approfondimento più ampio sulla questione Alitalia. Ne abbiamo parlato anche venerdì, c'era stata questa maratona nella notte. In realtà purtroppo non si è ancora arrivati a un accordo, adesso addirittura ci sarà un referendum per i dipendenti per capire la loro posizione su questo possibile accordo, la cui alternativa è il commissariamento. Il titolo del Messaggero: salvataggio all'Italia, incognita referendum. Da mercoledì a domenica le votazioni dei 12.000 dipendenti che dovranno esprimersi sul pre-accordo tra azienda e sindacati. Ancora scusatemi, prima di passare ai supplementi domenicali, questa notizia alla quale dà spazio soltanto l'Avvenire, ma che invece secondo me è molto positiva. Ieri in Arkansas, uno degli stati americani dove è ancora ammessa la pena di morte, sono state fermate da un giudice 9 esecuzioni, ed è credo sempre appunto una buona notizia, perché sapete che Stati Uniti e Cina e altri paesi come l'Arabia Saudita sono ancora paesi che non solo applicano la pena di morte, ma ogni anno applicano la pena di morte a centinaia di persone. Forse in Cina sono addirittura migliaia. Ma vediamo appunto i supplementi domenicali. La domenica del Sole 24 Ore, iniziamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana parte da una citazione del filosofo ebreo Martin Buber e si intitola Alle spalle di Dio, il breviario. Si può credere che Dio esiste, ma vivere alle sue spalle. Chi avere fede in Lui vive al suo cospetto. Oggi è Pasqua e vogliamo proporre una riflessione di taglio religioso. Nella Bibbia c'è l'espressione stare davanti alla faccia del Signore, di solito resa con la formula al suo cospetto. Questa formula è presente nella considerazione del filosofo ebreo viennese Martin Buber, che abbiamo appena citato. È stato lui, tra l'altro, a sviluppare il tema del dialogo interpersonale tra un io e un tu, dove l'altro può anche essere il tu divino. Davanti al Signore sta sereno chi ha il cuore e le mani pure da ogni colpa e ingiustizia, sta l'orante sincero, sta il peccatore contrito. Ci sono però anche quelli che vivono alle spalle di Dio. Vorrei assumere questa espressione nel duplice senso italiano. C'è infatti chi si illude di nascondersi allo sguardo divino, che in realtà scruta cuori e reni di tutti. Ma c'è anche chi vive alle spalle di Dio approfittandone con una religiosità ipocrita, interessata, economica. Cristo, che pure ha tanto perdonato, ha sempre scrollato costoro dalle sue spalle e da quelle di Dio. Ma la copertina vera e propria è un articolo di Carlo Vecce, che è uno filologo e studioso del Rinascimento e che sarà tra l'altro a Tempo di Libri, la manifestazione dedicata ai libri, la prima edizione, e si terrà qui a Milano alla Fiera di Roda dal 19 al 23, quindi da mercoledì a domenica. Il Carlo Vece si occupa di Leonardo. In occasione dei traslochi elencò i testi della sua biblioteca, 120 volumi a stampa con molte opere letterarie e trattati di retorica e grammatica. Quindi questa finestra sulle, spesso le biblioteche delle persone ancora oggi dicono molto di loro, e quindi qui Leonardo, tra virgolette, uomo di lettere. E poi una recensione che ho trovato bellissima, tanto che penso proprio che andrò a comprare questo libro, e che mi aveva già incuriosito perché avevo visto segnalato su in varie riviste. Il titolo del libro è L'intelligenza delle api, cosa possiamo imparare da loro. È un libro di due etologi, naturalmente, e di un etologo, scusatemi, con un'introduzione di un altro etologo, e la recensione fatta da Giorgio Vallortigara è Nei pensieri e nei sogni delle api. Piccolo piccolo è lo spazio che occupa il cervello delle api, ma appunto secondo l'osservazione di questo etologo c'è e come. Il cervello di un'ape ha un volume di 1 mm³, ma contiene meno di 1 milione di cellule nervose. Sapete che nel caso per esempio nostro degli esseri umani sono miliardi, però fa un sacco di cose questo piccolissimo cervello. Il supplemento è arrivato alla 24esima settimana, c'è qualcuno che sa leggere, le 4 pagine dedicate ai lettori più giovani. Ha una copertina che si concentra su Pippi Calzelunghe, con una foto dell'interprete, forse della più famosa trasposizione per la TV dell'eroina di Astrid Lindgren. La piccola ribelle è nata nel nord dell'Europa, da dove arrivano altri ragazzi simpatici e terribili di testi più recenti per ragazzi come Matilde, Bulle e Tina, appena usciti dalla penna dell'autore. Vi segnalo anche, visto che oggi appunto è Pasqua e domani lunedì di Pasqua, pagina 33 del Sole, un altro articolo di Gianfranco Ravasi, Ritratto dell'uomo risorto, riflessione pasquale, il Gesù storico e il Cristo della fede non sono antitetici ma necessitano di diversi livelli di indagine. La lettura del Corriere della Sera, adesso abbiamo poco tempo, ma come vi dicevo ci sentiremo domani per guardare i quotidiani stranieri e anche riguardare i settimanali, magari torneremo anche sulla lettura che è in edicola tutta la settimana con il Corriere. La copertina è affidata come sempre a un artista, questa settimana è Teju Cole, che è un artista di origini nigeriane che però vive negli Stati Uniti ed è cittadino americano da molti anni. È una fotografia accompagnata da questo testo che trovo bellissimo, It takes a second to look and a long time to see, ci vuole un secondo per guardare ma molto tempo per vedere. E poi la lettura dedica tantissime pagine appunto a questa manifestazione Tempo di Libri, che sapete è la prima edizione in chiara concorrenza con il Salone del Libro di Torino, che invece si terrà in maggio. Vedremo un po' appunto se anche l'anno prossimo proseguiranno questo percorso parallelo le due fiere del libro, o se magari verranno unificate, vedremo. Però questo sicuramente approfittatene, questo è sicuramente il primo anno e spero non sarà l'ultimo in cui sia Milano sia Torino ospitano due grandi manifestazioni dedicate ai libri. Supplemento della Repubblica, come vi dicevo, ha la copertina sul nostro pianeta e sui rischi che sta correndo, e con all'interno tantissimi altri approfondimenti. E l'ultima segnalazione che vi faccio, da Alias del Manifesto, una recensione da Londra di Giuseppe Frangi su una grande retrospettiva, ce n'era già stata una qualche anno fa, su David Hockney, forse il più famoso artista contemporaneo britannico, alla Tate Britain, artista di visioni contagiose, tutti alla festa delle sue opere. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora buona Pasqua a tutti. E come vi dicevo, se volete, ci possiamo risentire domani alle 7:15.